Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, temi che riguardano in questo caso soprattutto le borse e le borse internazionali. Infatti il peggioramento in Europa è sensibile soprattutto alla luce di quello che sta facendo Wall Street, ne parleremo in apertura. Nel giorno in cui vengono alcune conferme importanti della squadra di Barack Obama alla Casa Bianca, il Dow Jones sta perdendo quasi il 5% in borsa e il Nasdaq oltre il 5%, il 5,5%. Ovvio, come ormai sappiamo da mesi, che questo vada a far peggiorare anche la situazione in Europa. Milano perde il 4,90%, ma l'S&P MIB peggiora di un 5,8%. Francoforte meno 6,2%, Parigi meno 5,4%, Londra meno 4,4%. L'euro sul dollaro è 1,2613. Che cosa è successo? Ripeto, ne parleremo in apertura, ma in sostanza alcuni dati americani deludenti. Il piano, il secondo piano di salvataggio, quello che aggiunge altri 800 miliardi di dollari agli 800 miliardi di dollari che l'America già col primo piano Paulson ha destinato, e poi racconteremo anche come. Infatti sono 200 miliardi a supporto dei consumatori e delle piccole imprese e 600 miliardi per farsi carico come Federal Reserve di tutti i prodotti tossici americani. Ebbene, insomma, in tutto ha messo in campo 1600 miliardi di dollari, ma non è abbastanza, vogliono di più i mercati evidentemente, o comunque chi sui mercati opera. Ora io faccio presente che 1600 miliardi di dollari sono il PIL, quasi il PIL italiano di un anno, per cui non è poca cosa. Dicevamo, mercati molto deboli, nel caso specifico sta precipitando a Milano, ma per altri motivi, non solo l'andamento del settore. Il Banco Popolare perde il 16% in questo momento, a 6 euro per azione. C'è la vicenda Italease che pesa moltissimo, tant'è che Banca Italease è il secondo peggior titolo, meno 15,5%. Anche di questo parleremo a mercato chiuso. Il terzo peggior titolo, se vogliamo, o il secondo tra quelli maggiori, è Enel, perde l'8,2% a 4,50 euro. Intesa perde il 7,5%. Il 7% lo perde anche l'Eni, il 7,8% lo perde Italcementi, il 6,6% Saipem, il 6,4% il calo di Prismian e Tenaris, il 6% quello di Unipol, Mondadori, Finmeccanica, Terna, Telecom e Unicredito perdono il 5,5%, Mediaset pesante meno 5,1% come Fiat. E avremo anche un approfondimento sui dati delle immatricolazioni. Oggi è arrivato un dato europeo non bello, soprattutto in Spagna e in Francia la frenata è stata fortissima nelle immatricolazioni di auto. In Francia però la Fiat è stata l'unico marchio estero ad aumentare le vendite, più 9%. Questo chiaramente non interessa al mercato, che guarda già al dato che uscirà alle 18, tra meno di un'ora, sulle immatricolazioni in Italia. E allora Fondiaria perde un altro 4,6% come ST Microelectronics, ci fermiamo al 4%, e quindi Generali meno 4,3%, Autogrill meno 4,2%, Lottomatica meno 4%. Di positivo c'è solo Luxottica più 2,2% e Mediolanum non va così male, nel senso che perde solo lo 0,7%, come Impregilo che perde solo l'1%. 349-238-6666 per i vostri sms. Il piano economico del governo, beh, ne abbiamo parlato a Focus Economia, ne ha parlato Deborah Rosciani venerdì, sabato i nostri GR. C'è qualche reazione oggi, insomma, sapete quello che le varie posizioni come si articolano secondo i sindacati, secondo la CGIL soprattutto. Il piano è poca cosa, il governo sostiene invece che è un piano di grande stimolo all'economia, la Confindustria ha detto bene le linee guida del piano, ma si deve fare di più, quanto a investimenti veri e propri, agevolazioni sia sulle imprese che reinvestono gli utili in capitalizzazione, in ricerca e sviluppo, quindi per aumentare la competitività, sia per il potere d'acquisto delle famiglie. Magari nel corso del programma oggi torneremo anche sul piano che è da 80 miliardi, ma di cui diciamo quelli più freschi, quelli nuovi sono circa 7 miliardi, 40 miliardi infatti arrivano dai fondi in compartecipazione europea, 16 miliardi erano già stanziati dal CIP, vanno sbloccati dal CIP per le infrastrutture, 10 miliardi dovranno essere recuperati dagli investimenti della società Autostrade se vuole poter aumentare i pedaggi, per cui diciamo, la parte nuova riguarda complessivamente, so, a spanne, 6,7 miliardi di euro. Ultima cifra e poi iniziamo con le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, che cosa è successo in America? Due indici soprattutto. La spesa per l'edilizia ha fatto a ottobre un meno 1,2%, peggio delle attese degli analisti, e anche l'indice ISM, che misura l'andamento del settore manifatturiero dell'industria, quindi americana, è sceso a novembre a un livello di nettamente inferiore anche in questo caso alle attese degli analisti, 36,2 punti, al di là delle attese degli analisti, al di là dei punti che sono più o meno rilevanti. È chiaro che un peggioramento di indicatori congiunturali in America fa presumere che la situazione stia peggiorando e che quindi la parte di stagnazione barra recessione sia peggiore delle attese, e ormai stiamo ragionando tutti sul 2009, nel senso che l'effetto trascinamento poi è sul 2009. Nuovo segnale negativo anche dell'economia tedesca dopo l'ingresso ufficiale, lo ricordo, della Germania nella recessione col dato del terzo trimestre. Le vendite al dettaglio in Germania hanno fatto un meno 1,6% sul mese prima e un meno 1,5% sull'anno. Anche in questo caso, rispetto al mese prima, gli analisti avevano previsioni di un terzo rispetto a quello che poi è avvenuto. Vabbè, adesso prepariamoci a una raffica di belle notizie del settore auto. Allora, in Giappone meno 27% le vendite a novembre, ai minimi da 39 anni. Ora, alcuni di voi ci chiedono, ma cosa serve il raffronto storico? Beh, serve per far capire che cosa da quanto non si verificasse un insieme di dati così negativi negli ultimi anni, perché poi il dato in sé può voler dire poco o tanto, ma vedere che è il peggiore da 39 anni la dice lunga, così come è il peggiore dal 93 il dato registrato nelle vendite di automobili in Spagna, meno 49%, e solo nel 1993 vi era stata una flessione precedente peggiore. Anche il mercato francese piange pesantemente, meno 14% nelle immatricolazioni di auto, e ripeto, Fiat è l'unica ad avere tra le marche straniere un aumento, più 9%. Tra l'altro, sempre nel settore auto, Ford oggi ha annunciato che sta rivalutando, quindi non esclude più la vendita della Volvo, sta valutando tutte le opzioni per quello che riguarda il marchio Volvo, controllato da Ford, che sappiamo essere a livello americano soprattutto un gruppo automobilistico in forte difficoltà assieme a General Motors e Chrysler. Ancora sul settore aereo, mentre all'Italia continua a slittare la data, si chiude secondo il commissario straordinario Fantozzi il 12 dicembre per impossibilità tecniche, non più il primo dicembre, quindi dovrà partire oggi la nuova Alitalia. Per i piloti, ha aggiunto Fantozzi, stanno arrivando le lettere di assunzione, mentre il termine per le condizioni di esecuzione del contratto fra CAI e Alitalia è prorogato al prossimo 4 dicembre. Dicevo, mentre l'Alitalia slitta di un paio di settimane l'intera operazione, Ryanair oggi ha lanciato un'offerta per comprare il totale del capitale di Aer Lingus, compagnia aerea irlandese, di cui già detiene il 30%. L'offerta vale sostanzialmente 750 milioni di euro a 1,40 euro per azione. quindi l'Irlanda si avvia, se l'offerta verrà accettata, ad avere un polo, nel trasporto aereo fatto sia da Aer Lingus che da Ryanair. Ancora rapidamente notizie che riguardano il gruppo Fiat, o meglio le controllanti IFI e IFIL. Gli azionisti dell'IFI infatti hanno approvato, come atteso, oggi la fusione per incorporazione nell'IFIL. Nel pomeriggio toccherà ai soci dell'IFIL deliberare sulla stessa operazione dalla quale nascerà la nuova società Exor. Manterrà sede a Torino, avrà uffici negli Stati Uniti e a Hong Kong, sarà presieduto da John Elkann, che già guidava le due finanziarie, mentre Gianluigi Gabetti sarà presidente d'onore, mentre Carlo Sant'Albano sarà l'amministratore delegato. E anche qui nel corso dei mercati finanziari ne parleremo. Zaleschi, la vicenda della Carlo Tassara, delle banche creditrici, che molte polemiche ha suscitato, perché secondo molti osservatori vi è stata una corsia preferenziale delle banche nei confronti di Roman Zaleschi, banche che magari sono molto più dure e acerbe con gli imprenditori, con i clienti dei mutui, e poi quando ci sono grandi debitori sono più accondiscendenti, ripeto, secondo i commenti che abbiamo letto sui giornali in queste settimane. Trovato l'accordo tra la Carlo Tassara e le banche creditrici, secondo fonti finanziarie, infatti, i negoziati avrebbero portato a una soluzione positiva, si starebbero limando gli ultimi dettagli. Tra l'altro, i contenuti degli accordi tra Roman Zaleschi e le banche creditrici, quindi Unicredit, Intesa, San Paolo, Monte dei Paschi, UbiBank e BPM, porterebbe alla liquidazione delle banche estere in parte attraverso la disponibilità di cassa della Tassara e in parte attraverso la cessione di partecipazioni e messa in sicurezza della holding attraverso una stabilizzazione del debito con le banche italiane. Il finanziere franco-polacco, da quello che si è capito, procederà quindi al rimborso del 1.300 milioni di euro di debiti contratti con le banche estere, che sono BNP Paribas e Royal Bank of Scotland, in parte ricorrendo ai soldi dell'aumento di capitale da 200 milioni, in parte attingendo da altre disponibilità e poi mettendo sul mercato alcune delle sue partecipazioni. E comunque, rimando ai mercati finanziari, 349-238-6666 per i vostri sms, un rapido aggiornamento del pacchetto anticrisi e poi ci concentriamo sugli Stati Uniti, perché da lì oggi stanno arrivando nuovi dolori. Vedo già molti sms. Se volete il gufo, vabbè, datemi il tempo di respirare, sono appena rientrato, il gufo avrà tempo questa settimana. Dicevo, il pacchetto del governo. Oggi il Presidente della Repubblica, Roberto Napolitano, ha detto in sostanza, Giorgio Napolitano, scusatemi, ha detto in sostanza, scegliendo di tagliare in modo più o meno uguale tutte le voci di spesa, riferito soprattutto ai tagli di spesa generalizzati, si ottiene la conseguenza di cristallizzare le peggiori tendenze che si sono sedimentate nella spesa pubblica e nei bilanci dello Stato. Ossia il presidente Napolitano ha detto no ai tagli di spesa generalizzati, e sempre Giorgio Napolitano ha continuato: l'attuale situazione finanziaria non è un momento difficile, non è solo un momento difficile, si è parzialmente corretto rispetto a una dichiarazione precedente. E ancora la posizione delle banche soprattutto delle fondazioni bancarie. Il presidente dell'ACRI, quindi dell'Associazione Nazionale delle Fondazioni Bancarie, nonché della Fondazione Carepro, Giuseppe Guzzetti, oggi a margine di un convegno in Asse Lombarda, al microfono del nostro Stefano Totoro, ha detto in sostanza: beh, insomma, il nostro parere sulle novità prodotte nell'attività della Cassa Depositi e Prestiti è molto positivo. Io non ho titolo a dare giudizi complessivi su questo decreto, posso solo dire che all'interno di questo decreto l'articolo 22 introduce elementi di grande novità circa l'attività della Cassa Depositi e Prestiti, come da mesi assieme al Ministero, al Ministro del Tesoro, assieme alla stessa cassa depositi e prestiti abbiamo approfondito, e quindi quegli spazi di interventi sulle infrastrutture, private equity, il venture capital per la ricerca, l'edilizia sociale, beh, per l'edilizia sociale già nella legge 112 avevamo l'articolo 11 che rendeva operativa la cassa utilizzando il risparmio postale. Con questa norma del decreto legge finalmente la cassa depositi e prestiti potrà lavorare in questi settori, e anche rispetto alla crisi economica mi pare che possa dare un contributo molto importante. Il sistema delle fondazioni, azionista della cassa ma più in generale interessato a questi problemi, esprime un giudizio molto positivo, e naturalmente siamo assolutamente collaborativi come sistema delle fondazioni all'interno dei nostri territori. Allora, fate notare al 349-238-6666 che non ho dato le quotazioni del petrolio, avete ragione. Il petrolio è in forte calo nonostante la richiesta dell'OPEC alla Russia per arrivare a un accordo, tagliare la produzione, riportare il livello del petrolio a $80 al barile. Oggi il petrolio vale $51,11, meno 6%. Voglio dire, anche in questo caso puoi tagliare quanto vuoi, o perlomeno puoi tagliare, ma se la domanda di energia, complice la recessione in atto, sarà più bassa, è ovvio che le quotazioni scendono. Ancora per quello che riguarda altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, aumenteranno del 77% i controlli sulle grandi aziende, quelle con un fatturato non inferiore ai 300 milioni di euro. La media annua dei controlli IRPEG e IVA su questi big dell'economia, sono circa 1000 soggetti, è tra l'altro prevista nel decreto anticrisi, per cui i controlli verranno aumentati, gli accertamenti, praticamente di circa il 100, per pari al numero 100, quindi un 77% in più. Ancora l'aumento dell'IVA sugli abbonamenti, c'è una polemica in corso, ne hanno parlato i nostri GR, Sky ha dei promo che invitano a scrivere al governo, a Palazzo Chigi. Insomma, Sky ha già fatto sapere che l'eventuale aumento dell'IVA sarà a carico dei clienti, ha mandato in onda un promo, c'è una polemica tutta politica. L'aumento dal 10 al 20% dell'IVA sui canoni di abbonamento TV porterà a regime dal 2009 il livello annuo di incremento di getto IVA a circa 270 milioni di euro. Questo è quanto calcola la relazione tecnica del decreto anticrisi per quello che riguarda la TV digitale. E adesso la crisi finanziaria, la componente americana. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 degli Stati Uniti, buonasera. Buonasera. Allora Mario, vediamo di fare il punto, perché la settimana scorsa è arrivato un annuncio di un altro piano da 800 altri miliardi di dollari, oltre al primo piano, quello famoso di Paulson, di cui 200 miliardi di supporto ai prestiti dei consumatori e delle piccole imprese e 600 miliardi con cui la Federal Reserve si farà carico di prodotti tossici, insomma, finanziari legati ai prestiti immobiliari. Il risultato è un meno 4,52% sul Dow Jones oggi? Ma dunque direi che dobbiamo vedere quello che è successo in un contesto un po' più ampio, e cioè che in realtà l'indice Dow Jones ha guadagnato in 5 giorni quasi il 20%, e dunque oggi in un contesto in cui, al di là della crisi finanziaria, e quindi riassumiamo la settimana scorsa, c'era un rischio addirittura di un fallimento di Citigroup, di Citicorp, c'era un pericolo su carte di credito, c'era un pericolo sui consumatori. Ecco, in questo contesto il governo è intervenuto pesantemente, ha cercato un po' di rassicurare tutti. Citigroup è tornata in sella, il titolo addirittura ha fatto il 300% in meno di una settimana, e si sono date garanzie sia ai consumatori che agli emittenti di carte di credito, i quali possono essere considerati come delle banche, quindi rientrano sotto l'ombrello della Federal Reserve. Quello che colpisce oggi, al di là del fatto che quando si fa il 20% in 5 giorni c'è sempre la tentazione per qualcuno di realizzare dei profitti, credo che questo sia inevitabile, soprattutto per chi l'ha fatto con diciamo opportunismo speculativo, abbiamo avuto dei dati negativi sul fronte economico. Non dimentichiamo che questa crisi corre su due binari, sul binario della debolezza strutturale finanziaria che è in fase di rifacimento completo e sul binario invece della recessione economica che ancora non sappiamo quanto profonda e quanto lunga sarà. Ebbene, oggi ha colpito la recessione, ha colpito la paura di un forte indebolimento dell'economia, abbiamo avuto l'indice manifatturiero che è sceso a 36,2 in novembre, che è il dato più debole dal 1982, abbiamo avuto altri dati negativi sempre sul settore manifatturiero in arrivo dall'estero e abbiamo avuto un calo dell'1,2% delle spese per le costruzioni, un calo piuttosto forte. Dunque si ripresenta sul mercato quello che è il fantasma di sempre, quanto profonda, quanto lunga sarà la recessione. Questi due dati hanno colpito, la borsa ha prodotto un aggiustamento al rialzo, in questo momento siamo a circa meno 4%, quindi in tempi normali sarebbe un dato straordinario, però ricordiamolo, siamo ancora a quota 8.437, il Dow si è portato vicino addirittura a sfiorare addirittura quota 9.000, se pensiamo che un paio di settimane fa il Dow era precipitato addirittura a quota 7.700 e sembrava che potesse andare ancora più basso, direi che restiamo in quel margine di trading range che, di cui abbiamo parlato anche in passato, che secondo me in questo periodo oscilla ci tra 7.700, 7.800 e 9.400, 9.500. Quindi oggi ci troviamo in mezzo e quindi si scontano i dati negativi sull'economia. Chiaro, quindi è importante anche quando tu ricordi, per cui attenzione, vista la crescita o il recupero del mercato la settimana scorsa, ci sta tutto che il Dow Jones torni a 8.400 punti, il periodo è quello che sappiamo, e se fossimo in un periodo normale un meno 4,80 sarebbe un titolo di apertura, ma in un periodo come questo meno 4,80 sul Dow Jones non dico che non faccia notizia, per carità, però rientra in quelle oscillazioni a cui dobbiamo abituarci finché non si vedranno indicazioni più chiare sul 2009 e soprattutto migliori sul 2009. Grazie Mario Platero, era importante capire se vi fosse una novità in particolare in arrivo dall'America o invece non fossero delle correzioni, per quanto pesantissime sui mercati, ma sempre correzioni. Il meteo e la pubblicità, poi ci spostiamo a casa nostra, non solo per la borsa ma anche per alcuni casi di borsa, penso alla vicenda Italease che di nuovo torna a penalizzare il Banco Popolare. Il Banco Popolare alla fine scende a 6 euro per azione, meno 15,6%. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti di voi ci chiedono o commentano, per meglio dire, il fatto che nel decreto anticrisi presentato venerdì dal governo venga meno la possibilità di detrarre il 55% del risparmio energetico, era una norma prevista per le abitazioni e le costruzioni, alcuni sono albergatori, altri sono privati cittadini. Non è esattamente così da quello che abbiamo capito, comunque, nel senso che non viene completamente meno. Se ne occuperà giovedì Salva Danaio con Deborah Rosciani, magari se riusciamo, se abbiamo anche un po' di spazio di tempo, alle 18 facciamo anche il punto con Deborah Rosciani per quello che riguarda lo sgravio del 55% sugli investimenti fatti per risparmiare energia e che cosa preveda la norma dentro il decreto anticrisi. Allora, abbiamo sentito da Mario Platero in qualche modo un'indicazione rassicurante, perché il Dow Jones che perde il 4,3% rientra purtroppo in una banda di oscillazione, visto che ha ancora 8.400 punti, a cui dobbiamo abituarci. Ripeto, in periodi normali sarebbe stato il crollo di Wall Street, in periodi eccezionali come questo uno deve anche ricalibrare tutti i giudizi e gli attributi. Detto ciò, oggi si sta discutendo a Trieste, nel corso dell'ottava edizione dei Nobel Colloquia, ossia sono diversi premi Nobel all'economia che si incontrano. È chiaro che si sta discutendo della crisi finanziaria internazionale. Sono presenti tra l'altro Eric Maskin, James Marles, Robert Mandel, Edward Prescott e Robert Solow, tutti i premi Nobel all'economia. Tra l'altro Edward Prescott, che vinse il premio Nobel nel 2004, ha detto: è tempo di riorganizzare l'intero settore finanziario, un nuovo sistema di regole. Robert Mandel, considerato da molti il padre dell'euro, anche lui premio Nobel nel 1999, ha detto: occorre ridurre le tasse alle imprese di almeno il 15% per uscire da questa crisi. Una crisi che lo stesso Mandel ha definito la più seria degli ultimi 25 anni, aggiungendo che la recessione non sarà breve. Questo per dire che i gufi esistono anche tra i premi Nobel, non solo tra chi, diciamo, ascoltate in questo programma. E poi sempre Mandel ha detto, riferito chiaramente all'America, dovrebbe portare le tasse in modo permanente dal 35 al 15%, le tasse sulle imprese. E andrebbe reintrodotto, ha continuato Mandel, un sistema di rapporto fisso tra le valute. La variazione attuale è pessima per le imprese. Ossia, Mandel sarebbe una specie di banda di oscillazione, il vecchio serpente dello Smes, qualcuno se lo ricorda, e cioè un euro che potesse oscillare tra 1,20 e 1,40, in modo da garantire maggiore capacità di pianificazione negli approvvigionamenti e nelle vendite alle imprese. Invece, particolarmente positivo, nonostante la situazione, il premio Nobel all'economia Robert Solow, premio Nobel nel 1987, ha detto: grazie ad Obama la recessione, che dà per scontata anche lui, in atto in America, potrebbe essere più breve. I motivi che comunque hanno scatenato questa crisi, ormai non più finanziaria, neanche dei mutui, ma crisi economica globale a tutti gli effetti, li ha spiegati Robert Solow al nostro Paolo Piacenza. The origins of the financial crisis. Le origini della crisi finanziaria sono senza dubbio da rintracciare negli Stati Uniti, che poi hanno infettato l'Europa. Penso che quello che è successo negli Stati Uniti sia stato questo. A causa di quella che viene chiamata eccessiva ingegnerizzazione finanziaria, si è dato vita a molti strumenti, a cominciare dai mutui ad alto rischio. E proprio il rischio che questi titoli comportavano è stato senza dubbio sottostimato dai mercati, che acquistavano e vendevano questi titoli ad altri, creando un forte livello di indebitamento. Con lo scoppio della bolla immobiliare e dei mutui ad alto rischio, si è diffuso velocemente nel paese un clima di incertezza. E alla base di tutti i problemi c'è stata soprattutto questa errata percezione del rischio, un rischio che è stato incorporato in una serie di transazioni scorrette. Forse il peggio è passato, ma nessuno può saperlo. Se dovessi rispondere a questa domanda con un sì o con un no, da parte vostra la risposta più corretta sarebbe quella di ridermi in faccia. È possibile che abbiamo superato il peggio, ma dietro l'angolo potrebbe esserci un'altra sorpresa. Quando mi viene posta questa domanda, mi piace dire che Dio non ha ancora deciso se il peggio è veramente passato. Che detto da un premio al Nobel all'economia come Robert Solow non è male, figuratevi se noi riusciamo a capire se il peggio sia passato. Alza le braccia in sostanza anche Solow, che dice però: attenzione, vi sono degli elementi che hanno scatenato questa crisi. Certo che ormai più questa crisi va avanti, meno diventa anche interessante così andare a capire sostanzialmente di chi è la colpa. Che non vuol dire chiaramente non mettere regole e non fare in modo che non si riverifichi una crisi del genere fra 10 anni. Per l'immediato futuro, che cosa ci aspettiamo? Beh, insomma, la domanda che molti si pongono in questo momento, siamo di fronte a una recessione normale, per cui ci becchiamo una fine 2008 e un 2009 col segno meno, ma poi insomma già da fine 2009 l'economia inizia a dare segnali di vitalità, oppure tutti questi paragoni col 29 porteranno a dire che poi qua ci becchiamo un periodo ben più lungo di stagnazione, se non recessione economica. Sempre Robert Solow e sempre al microfono il nostro Paolo Piacenza. Well, neither of those things. Right now, one would have to suppose... Nessuna delle due cose. Attualmente si può ipotizzare che almeno negli Stati Uniti la recessione sarà più profonda rispetto al normale periodo di crisi del dopoguerra. Ma pensare che questa crisi ci riporti agli anni 30 credo sia un'enorme esagerazione. Ciò che spero, soprattutto, è di riuscire a mantenere il livello di disoccupazione a un massimo dell'8%. Va ricordato però che negli anni 30 la disoccupazione era compresa tra il 25 e il 30%, e si vede dunque la grande differenza tra oggi e allora. Credo dunque che la crisi a cui stiamo assistendo sia un po' più grave rispetto a quelle normali del dopoguerra, ma parlare addirittura degli anni 30 è veramente un'esagerazione. Molto, devo dire, dipende dalle risposte che verranno date a livello politico. È stata una sfortuna che questa crisi sia coincisa con il periodo di cambiamento di amministrazione degli Stati Uniti. Credo che la politica stia rispondendo relativamente bene. Se riusciremo a ottenere una risposta in termini di politiche adottate, che si concentri in particolare su stimoli fiscali pari ad almeno il 2-3% del PIL, e se il Congresso riuscirà ad approvare a gennaio questo tipo di programma, allora gli esiti che potremmo conseguire saranno migliori. E credo che si possa dire la stessa cosa per l'Europa. Così appunto il premio Nobel Robert Solow. Adesso dalle analisi e anche dalle ammissioni di incapacità, di non essere Dio, che abbiamo appena sentito, dei premi Nobel che sono riuniti a Trieste oggi e domani per i Nobels colloquia, passiamo ai mercati finanziari, cioè andiamo dalle stelle, una cosa molto più prosaica, le borse che hanno chiuso con cali del 5,3% a Milano sul MIB, del 6,3% sull'S&P MIB, meno 6% anche Parigi e Francoforte. Vabbè, un bel inizio di settimana, al di là delle rassicurazioni di Mario Platero sul Dow Jones, che ha dato là le vendite, meno 4,3%, dice attenzione, l'oscillazione sarà quella, i cali sono pesanti in Europa. Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. I settori peggiori. I settori peggiori, soprattutto a Milano, sono stati quelli delle banche, comunque in linea con quanto accaduto nel resto d'Europa. E poi per quanto riguarda l'Italia sono andate molto male tutte le utilities, in primis Enel, che sul finale ha perso quasi il 10%, il 9,58%, sui timori che provocherà il decreto governativo proprio sui conti delle utilities. E quindi le utilities e non solo le banche. Perché c'è preoccupazione? Gli utilities sono quelle società, quei gruppi che vendono servizi classici come acqua, elettricità, anche telefonia. Ormai gli utilities sono servizi, diciamo, in genere alla clientela. Sì, perché come ben sappiamo appunto c'è il decreto anticrisi che rivedrà il sistema tariffario, certo. E conseguentemente l'incertezza anche sull'andamento futuro delle tariffe ha provocato questa ondata di vendite su tutto il settore delle utilities. Per quanto riguarda Enel, peraltro ci sono degli analisti, gli analisti di UBS hanno iniziato a far nero su bianco, a mettere giù nero su bianco delle stime, delle previsioni, prevedono ad esempio che ci sarà una notevole riduzione degli utili futuri fino al 10%. E quindi prevedono anche la possibilità che l'azienda sia necessitata a lanciare un aumento di capitale. Ecco perché i titoli Enel sul finale hanno perso quasi il 10%, comunque è andato male, ripeto, tutto il settore, anche la stessa 2A ad esempio ha perso il 4,5%. Allora, altri titoli, i bancari. Del Banco Popolare parleremo tra un attimo, abbiamo un approfondimento apposito, è il peggior titolo, meno 16,3%, trascinato in questo crollo da Banca Italease, che ha perso il 16,5%, male anche Beni Stabili meno 11,6%, di Enel dicevi tu. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, Italcementi meno 9,1, Intesa meno 8,60. Anche oggi Intesa peggio di un increto, c'è un motivo particolare? Certo, il motivo si chiama Roman Zaleski. La Carlo Tassara di Roman Zaleski detiene il 5,1% del capitale di Intesa San Paolo, e in particolare il 3% è dato impegno alle banche BNP Paribas e Royal Bank of Scotland, e potrebbe quindi essere escusso e i titoli potrebbero essere venduti sul mercato. Certo. Questo almeno è quello che si teme, ecco perché nelle ultime sedute le azioni sono andate peggio, ma soprattutto oggi, visto che pare che nella notte sia stato raggiunto comunque. Sì, e ci sono novità sull'accordo, perché ricordavamo che su Zaleski e la Tassara erano solo indiscrezioni, sono giunte notizie ufficiali o no ancora? No, ci sono solo le indiscrezioni rilanciate a metà mattina dal sito internet di Panorama, secondo il quale sarebbe stato raggiunto in tarda notte un accordo che in cui si vanno a liquidare le posizioni delle banche straniere con un insieme di strumenti, giusto? Esatto. E chiaramente poi i titoli vengono messi sul mercato, potrebbero essere venduti, da lì il calo pesante. Prismia meno 7,1, Eni meno 7,1, Saipem meno 7,1, settore energetico oggi debole, ma c'è un petrolio che, nonostante le pressioni dell'OPEC sulla Russia, continua a viaggiare in calo, meno 6,6%, $51 al barile. minuti. Allora, Eleonora Micheli, al di là delle banche, dei titoli energetici, come è andato, visto che ne parliamo più avanti, il settore auto? Perché Madrid ha visto il peggior calo delle immatricolazioni da 13 anni, il Giappone da 39 anni, la Germania pure non sta tanto bene, la Fiat però in Francia ha visto essere era l'unico marchio estero in aumento, eppure perde il 4,8%. Sì. D'altronde va detto che la Fiat oggi ha registrato un andamento molto volatile. A un certo punto della seduta le azioni erano riuscite ad andare anche in terreno positivo o in controtendenza, sì, con il resto del listino, e questo grazie sia ai dati auto francesi, più 9% le vendite del gruppo Fiat a novembre, sia grazie soprattutto alle parole pronunciate dall'amministratore delegato Marchionne, che ha premesso perché i dati sulle immatricolazioni auto italiane non sono stati ancora pubblicati, si aspettano a breve, tra qualche minuto. Comunque Marchionne ha detto che il mercato è andato male, meno 30%, ma Fiat ha fatto meglio ed è cresciuta la sua quota sopra il 31%. Adesso si attendono i dati ufficiali. Le Fiat avevano provato a rialzare la testa, poi sono andate giù sul finale con il mercato e con tutto il comparto auto. Grazie Leonora Micheli, Radio Cor, il Sole 24 Ore, i migliori volete anche, avete ragione, ci mancherebbe, i migliori della giornata. Eurofly più 25%, IT Holding più 10,20%, IMSI più 6,5%, il Banco di Desio più 5,3%, Anima SGR più 3,7%. Tra i peggiori citiamo anche Eni, Prismian meno 7%, Mondadori, Unicredito e Finmeccanica e Mediaset meno 6%, come Terna, Telecom, Tenaris e Bulgari meno 5,5%. Non dovrei aver dimenticato nulla. Banco Popolare meno 16,4. Allora, Alberto Grassani del Sole 24 Ore in studio con noi. Buonasera Alberto. Buonasera. Il dato oggi su Banca Italease è il seguente: i tedeschi di DZ Bank hanno rinunciato a un'alleanza strategica con Banca Italease, che fa venire meno un incasso per una società messa molto male da 370 milioni di euro. C'era un accordo firmato lo scorso 10 ottobre di DZ Bank, VR Leasing, insomma i tedeschi entravano, acquisivano il 60% di un veicolo societario pagandolo 370 milioni e levavano, insomma, dalla brace quella che è la vicenda Italease per il Banco Popolare. Cercando di spiegarlo a tutti, visto che il Banco Popolare assieme alla Popolare di Sondrio detiene il 32,8% di Italease, perché va così male anche il Banco Popolare per una vicenda che riguarda comunque 370 milioni di euro? Ma perché la vicenda Italease con l'alleanza di DZ Bank si sarebbe risistemata? Nella sostanza i tedeschi avrebbero comprato metà della banca, mentre invece con la rottura di questo accordo l'onere del finanziamento di Italease spetterà ancora ai soci di maggioranza del gruppo. Tenete conto che il merito di credito di Banca Italease è così deteriorato che l'istituto non può da solo presentarsi sul mercato interbancario per fare il funding, perciò ha bisogno del supporto dei suoi azionisti. Ora, gli azionisti hanno reagito immediatamente, hanno concesso linee di credito per 2 miliardi a Banca Italease perché l'istituto possa finanziare tutte le attività di leasing del prossimo anno. Resta il problema, ovviamente, che questa attività e va bene nel medio periodo, ma bisognerà trovare un'alternativa alla partnership con DZ Bank. Nella sostanza è evidente che anche la speculazione che in questo momento c'è sui bond, i CDS, cioè i derivati del credito sul titolo Italease, sono schizzati a oltre 950 punti base, il che significa che il mercato scommette su ulteriori difficoltà nel merito di credito di Banca Italease, scommette che l'istituto possa entrare in crisi di liquidità. Allora a questo punto è evidente che il supporto degli azionisti di maggioranza ci sarà, c'è stato in passato quando ci sono gli altri scandali, c'è stato in questo momento, però questo onere ha un costo e il Banco Popolare sta pagando in borsa questo supporto alla controllata. Allora, visto che alcuni scrivono ma manager in galera, un attimo sulla vicenda Italease, c'è stato nell'ordine il 7 giugno scorso le dimissioni dell'amministratore legato Faenza era già indagato per il crack del gruppo Coppola e ancora a luglio si accendono i fari, forse un po' tardivi, di Consob e Banca d'Italia. Italease, non possiamo spiegare tutta la vicenda, ma salta per aria perché aveva investito oltre 400 milioni che si rivelarono perdite di 400 milioni su strumenti derivati, per la vicenda un po' più complessa, ma insomma, tra l'altro strumenti derivati molto complessi, chiamati anche capestro in alcuni casi, rifilati a 2600 clienti in tutto, ma di cui l'80% era su una decina di clienti. Come se non bastasse, a gennaio 2008 viene arrestato lo stesso Faenza assieme al responsabile dell'ufficio Financial Banking Massimo Sarandrea e Roberto Fabbri, assieme ad altri consulenti intermediari, per cui non è vero che non vi siano state indagini e inchieste in questa vicenda. Ti chiedo, è possibile però che le garanzie mosse e messe sul piatto dal Banco Popolare portino il Banco Popolare a perdere il 16,3%? Cioè, è un po' io capisco che il tono del mercato è tutto negativo, che titoli come Unicredito perdono il 6,4%, ma insomma il 16,3 è tre volte la media di mercato oggi. Ma allora, innanzitutto questo si spiega col fatto che dei 2 miliardi che hanno concesso le banche pattiste, circa uno farà capo al Banco Popolare. Non hanno dato i dati, ma grosso modo sono queste le attese del mercato. Bisogna però distinguere fra due stagioni diverse di Italease. Ce n'è una degli scandali della vecchia gestione e ce n'è una nuova. Il nuovo management è stato molto bravo a guidare questa barca in tempesta. Ha dovuto fare fronte alle indagini della magistratura, a un danno reputazionale, alle perdite sui derivati. È riuscito a contenere i costi, a rimettere in efficienza la banca. È chiaro che nel momento in cui si intravedeva il porto dell'alleanza con DZ Bank, cioè la divisione in due della banca, la vendita di metà della banca ai tedeschi, questa tensione finanziaria ha spaventato i tedeschi e quindi si riaprono di nuovo tutti i negoziati per vedere quale soluzione sarà possibile adottare per riportare in sicurezza Banca Italease. Sì, giustamente alcuni ascoltatori fanno anche notare che il comportamento di DZ Bank non è forse il massimo della correttezza, perché insomma, mollare all'ultimo minuto potevi fare il favore di dirlo un po' prima, no? Questo è un elemento di grande irritazione. Immaginatevi che fino a giovedì i manager di DZ Bank trattavano come per chiudere un negoziato che peraltro è stato confermato a metà ottobre, proprio dopo l'esplosione del caso Lehman, cioè quando la crisi finanziaria internazionale aveva già avuto i suoi effetti più clamorosi. Quindi il cambiamento che può essere intervenuto fra il giovedì e il sabato mattina è molto modesto sui mercati per giustificare un cambio. Una retromarcia del genere. Insomma, hanno fatto i furbetti anche i tedeschi senza nessuna senza nessuna offesa, vedremo per ora chi ne paga le conseguenze, il Banco Popolare o meglio i suoi azionisti. Grazie Alberto Grassani. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso parleremo dei dati auto, dopo che sono arrivate docce fredde dal Giappone, oggi il peggior calo da 39 anni a questa parte, la Spagna il peggior calo da 13 anni a questa parte, e anche in Francia il calo è consistente, ma la quota Fiat aumenta, unico marchio straniero, lo diciamo con un pizzico di nazionalismo. Sono arrivati anche i dati auto per quello che riguarda le immatricolazioni del mercato italiano, meno 29,4% rispetto a un anno fa. Ne parliamo tra un secondo, perché come promesso forse riusciamo a dare anche un aggiornamento a una domanda che molti ci hanno posto, riguarda un comma del decreto anticrisi in cui sostanzialmente molti ascoltatori ci hanno scritto sia questa mattina a Salvadanaio che oggi che questo pomeriggio a Focus Economia, dicendo viene meno l'investimento fatto per il risparmio energetico, la detraibilità al 55%. Allora, visto che giovedì se ne occuperà Salvadanaio con Deborah Rosciani, Deborah, buonasera. Buonasera a tutti. Aiutaci a capire, perché anche il Sole 24 Ore sul sito online, il sole24.com, oggi scrive che è a rischio la detrazione del 55% sul risparmio energetico. Da altre fonti invece sembra che non sia esattamente così. Che cosa si è riuscita a capire, soprattutto, visto che ne parlerai giovedì, quali sono i termini? Esatto, diciamo che è a rischio la detrazione per molti di coloro che hanno fatto questa domanda, che si accingono a farla per poterla appunto riottenere da parte del governo, è a rischio la detrazione per molti di coloro che hanno già eseguito i lavori di riqualificazione magari della propria casa nel 2008. Il provvedimento è contenuto nel decreto legge che contiene appunto i provvedimenti anticrisi, che è stato varato venerdì, e interviene su numerosi punti. C'è però da dire una cosa subito, che devono essere emanati i decreti attuativi, e siccome in questa giornata c'è stata una vera sollevazione popolare rispetto a questo provvedimento, come abbiamo avuto modo anche noi di notare dai nostri SMS, ma si sono movimentate già le associazioni dei consumatori e non solo, è anche probabile pensare che magari il governo reintervenga di nuovo con una marcia indietro almeno su qualche punto. Praticamente la novità sta in questo fatto, che mentre fino ad ora per poter ottenere questo beneficio fiscale a termine dei lavori occorreva fare la comunicazione all'Enea per appunto ottenere il beneficio, che è l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, adesso bisogna chiedere un assenso obbligatorio preventivo all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta stabilisce se si ha diritto o meno al beneficio fiscale. Di conseguenza si crea una sorta di graduatoria all'interno dell'Agenzia delle Entrate, che poi a sua volta appunto stabilisce chi ha diritto a questo beneficio. La questione è che la domanda si può presentare non in qualsiasi momento dell'anno, non in qualsiasi momento una volta che è finito il lavoro nella propria casa, nella propria azienda, ma secondo quello che è stato possibile appurare fino a questo momento nel decreto legge, che prevede appunto la presentazione telematica dell'istanza di rimborso fiscale, la domanda si potrà fare per esempio dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009 per le spese sostenute nel 2008 e dal 1 giugno al 31 dicembre 2009 per tutti gli altri lavori successivi. Questo significa che, già immaginiamo, il 15 gennaio ci sarà la corsa folle alla domanda telematica, che manderà i computer dell'Agenzia delle Entrate in tilt, un po' come funziona per esempio per i decreti flussi degli immigrati extracomunitari. C'è un dato però che preoccupa, ossia i soldi a disposizione, i fondi a disposizione sono 82 milioni di euro per il 2008, poi sono il doppio nel 2009 e il triplo, anzi un po' di più, 300 milioni nel 2010. Il problema è che nel 2007 sono state chieste detrazioni per 825 milioni di euro. Ora, immaginando che anche quest'anno siano almeno come nel 2007, se non di più, forse di più, ecco, sì, probabilmente di più, dicono molti osservatori, ma immaginando che fossero anche 800 milioni, se ce ne sono a disposizione 82 milioni, uno su 10 ce la fa. Quindi infatti il problema è questo, è appunto il fatto che è stato stabilito anche un tetto massimo, mentre prima non c'era mai stato, adesso invece oltre questo noi non lo possiamo restituire. Questo ha determinato anche il fatto che appunto ci sia la necessità di fare la domanda all'Agenzia delle Entrate, di creare l'ordine cronologico. Ecco perché ci scrivono molti proprietari di alberghi o soggetti che hanno ristrutturato le case investendo nel risparmio energetico, convinti di avere la detrazione al 55%. Se non si ottiene quella del 55%, c'è sempre quella del 36%. Sì, che è più limitata, perché è su un tetto di spesa molto più ridotto, ossia massimo 48.000 euro, mentre prima la detrazione del 55% poteva andare da un minimo di 54.000 a un massimo di 180.000 euro. Esatto. Per cui ci sono due elementi: da un lato i soldi a disposizione, se il dato sarà confermato come nel 2007, riguarderanno 1 su 10, e dall'altro comunque la detrazione del 36%, quindi non più sul 55%, ha anche un tetto massimo molto inferiore rispetto a quanto non avesse quella del 55%. Ecco perché molti su questo aspetto retroattivo lamentano appunto che ci perderanno dei soldi e investimenti già fatti, ecco perché della cosa lascia perplessi la misura. Per non contare poi il fatto che magari chi si accingeva a farli magari adesso si ferma, li rinvia, e questo crea anche un effetto insomma moltiplicatore anche su altre attività imprenditoriali. Scrivono anche imprenditori che dicono insomma molti clienti ci stanno chiamando imbufaliti perché avevano fatto investimenti convinti di poter godere di questa detrazione fiscale sul 55%. Detrazione del 55% sul risparmio energetico realizzato. Grazie Deborah Rosciani. Allora, questa mattina il là alle danze l'aveva dato il Giappone, meno 27% le vendite di auto a novembre, livello più basso da 39 anni. Poi è arrivata la Francia, meno 14%, nonostante Fiat facesse un più 9%, la Spagna nel pomeriggio meno 49% le vendite di auto rispetto a un anno prima, il peggior dato dal 1993. Adesso, tra l'altro a livello europeo il calo del 14,5%, adesso c'è il dato italiano, che è un dato complessivamente insomma brutto, non so come altro chiamarlo, meno 29,4% il mercato italiano, tra l'altro con scarse differenze tra marchi esteri, marchi non esteri. Comunque ne parliamo da un lato con Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Buonasera Sebastiano. E dall'altro col professor Giuseppe Volpato, che è docente di economia industriale alla Ca' Foscari di Venezia. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Allora Gianprimo, fai il giornalista in questo caso, ossia dacci la cronaca. Io ho dato il dato complessivo che mi sembra peggiore della media europea e per alcuni versi peggiore anche della Francia, non della Spagna. Gianprimo. Beh, il problema per il mercato italiano è che è piovuto sul bagnato, cioè il mercato stava già andando male nei primi mesi dell'anno, già da gennaio, per una serie di ragioni che abbiamo più volte commentato anche qui a Radio 24, con la crisi innescata da Lehman Brothers e da tutto quello che ne è, dal fallimento di Lehman Brothers e tutto quello che ne è conseguito, la situazione si è fatta veramente pesante, con questo calo del 29%, di quasi 30%, che non trova riscontro nelle statistiche italiane se non risalendo fino al 1993, quando ci fu un grande crollo del mercato automobilistico. Come in Spagna, quindi, dal 93. Sì, anche in Spagna la situazione è veramente gravissima. Tra i modelli e tra i marchi, perché io dicevo non c'è molta differenza tra le straniere e le italiane, nel senso che Fiat fa come marchio un meno 28%, Lancia un meno 25%, Alfa Romeo meno 31%, e questo porta il totale nazionale a un meno 28%, e la media delle estere fa un meno 30% con BMW che fa un meno 40%, Citroen meno 13%, Ford meno 22%, Opel meno 25%, Peugeot meno 50% e Renault meno 48%, Toyota meno 46% e Mercedes meno 25%. Il dato che ti ha sorpreso maggiormente è negativo, è quello invece che è risultato migliore delle attese. Parlo dei marchi, chiaro. Ma è negativo, è difficile vedere qual è il dato peggiore, sono veramente mi pare proprio un bollettino di guerra, quindi inutile infierire su chi ha subito delle perdite così pesanti. Mentre nella parte alta della classifica ci sono un paio di dati positivi. Audi ad esempio guadagna il 16% nonostante questa situazione difficile. Subaru, con volumi molto più piccoli, guadagna il 48%, Dacia, che ha vetture low cost, guadagna il 74%, ma stiamo sempre parlando di piccoli volumi, e Jaguar addirittura il 138%, quindi... Della Jaguar, con tutto il rispetto per la Jaguar, ma non penso che da lì possa arrivare un dato, diciamo. Certamente le vetture di lusso non sono toccate dalla crisi, anche perché ne hanno vendute 260 meno. Per cui va bene, esatto, in tutto. Le vetture low cost forse reggono. Audi e Subaru hanno modelli nuovi particolarmente interessanti, ma per il resto direi che il quadro è disastroso. Diciamo che se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se difficile, i concorrenti della Fiat spesso vanno peggio, penso alla Opel, ma soprattutto Peugeot, Renault e Toyota. La Ford perde più o meno come la Fiat un 22%, la Citroen va un po' meglio, meno 13% come calo. Sì, la Fiat ha un comportamento virtuoso in questa situazione difficilissima, cioè riesce sempre a perdere un pochino meno del mercato, e questo fa sì che in quota di mercato guadagni, quindi perde molto in termini assoluti, ma in termini relativi perde un po' meno e quindi va a un andamento migliore delle altre case, quindi una quota un pochino più elevata. Questo dura da molto tempo. È dovuto anche ai modelli, diciamo. È dovuto ai modelli, certo, è dovuto a una politica che evidentemente ha successo, anche se però le difficoltà poi ci sono per tutti. Allora, professor Volpato, il tema con lei chiaramente non è sui singoli marchi e singoli modelli, ma è su che cosa devono o vorrebbero fare i vari governi anche europei. Perché lo dico? Perché in America le case automobilistiche hanno chiesto al governo praticamente Ford, Chrysler e GM aiuti per 50 miliardi di dollari. Obama è favorevole a darne 25, ma insomma le vendite sono tornate ai livelli del 1980, quando in America c'erano 50 milioni di abitanti in meno, giusto per farci capire. General Motors in borsa vale come la Campari o come la Geox, nulla da criticare, ma insomma un po' pochino per un titolo che impiega, per un gruppo che impiega 280.000 dipendenti. L'Europa si sta muovendo in ordine sparso. Secondo lei, prima domanda, è corretto o no dare aiuti a un settore come quello dell'auto? Allora, la cosa non va impostata su, diciamo, aiuti all'auto oppure no, va impostata nel dire che cosa si deve fare per sostenere l'economia di questi paesi. L'economia di un paese è un po' come un aeroplano che vola a una certa velocità, fin tanto che mantiene una certa velocità sta in aria. Se abbassa troppo la velocità, arriva alla velocità di stallo, corre il rischio di precipitare. Ecco, i sistemi economici nazionali e internazionali si trovano in questa situazione. Stanno rallentando e bisogna stare molto attenti che non entrino in avvitamento, che non vadano in stallo, perché allora i danni sarebbero veramente molto grossi. Si tratta allora di sostenere l'economia, di riuscire a tamponare questa situazione di crisi concreta, reale, di carenza finanziaria delle famiglie, ma anche crisi di aspettative. E quindi bisogna intervenire sulle aree più importanti dell'economia. Ecco, per gli Stati Uniti certamente l'automobile è il settore manifatturiero più importante. E quindi è un settore dove ha senso cercare di intervenire, anche perché lì sostanzialmente le case costruttrici sono poche, praticamente i soggetti su cui intervenire sono relativamente pochi, e quindi si possono anche studiare delle iniziative mirate che eventualmente tengano conto anche di eventuali errori commessi in passato, cioè come qualcuno ha detto giustamente, ma mi sembra che poi non sia stato fatto per le banche, aiutare le banche però che i loro dirigenti che hanno commesso errori, in qualche caso anche operazioni troppo spregiudicate, mantengano i loro stipendi dorati, beh, questo è un po' troppo. Ecco, quindi secondo me occorre intervenire. Per gli Stati Uniti il mercato dell'automobile è certamente molto importante, a mio avviso lo è anche per l'Europa, e quindi probabilmente ha senso non farlo per l'automobile in sé, quanto per mantenere diciamo una velocità di perché a questo punto siamo in diminuzione del PIL, di diminuzione del PIL, ma non tale da mettere in avvitamento il sistema ecco, economico. Mi scusi, professor Volpato, però se ho ben capito, lei dice intanto in America come settore manifatturiero l'auto pesa molto di più rispetto all'Europa, e ecco perché poi si è letto dei 3 milioni di posti di lavoro a rischio se dovessero saltare per aria i colossi americani. Lei dice non aiutiamo un solo settore, ma facciamo in modo che la velocità dell'aereo non arrivi a un livello di stallo e quindi che i consumi reggano. Mentre intanto vedo che le agenzie battono una dichiarazione del presidente di Confindustria Marcegaglia che dice il decreto del governo va nella direzione giusta ma è ancora troppo poco, servono altre risorse per le imprese che per le famiglie. Le chiedo, lei a che iniziativa pensa? Perché insomma ci possono fare varie cose, ci possono fare sgravi fiscali. Il tema è sempre il cittadino che si ritrova più soldi in tasca e poi li spende o non li spende. È chiaro che secondo me è opportuno fare più interventi, non c'è un unico intervento. Diciamo che per l'Europa mediamente l'industria automobilistica è comunque importante, e per certi paesi come la Germania, la Francia, l'Italia, in parte anche la Spagna, ma un po' meno, insomma è effettivamente diciamo un'attività manifatturiera abbastanza vicina, paragonabile a quello che è per gli Stati Uniti, quindi da noi effettivamente i motivi ci sono. Certo, non per l'Olanda, per esempio, non per la Danimarca non ha nemmeno produzione automobilistica, quindi è chiaro che lì si deve pensare in maniera diversa. Come intervenire? Secondo me si può intervenire in più fronti, ma bisogna cercare di intervenire in fretta. Non so se l'amico Quagliano è d'accordo con me, è solo un'idea che mi è venuta e magari lui può aggiungere qualche cosa, ma non vorrei che in questa grossa caduta della domanda automobilistica italiana ci sia anche un meccanismo di aspettative, cioè i consumatori in questa situazione di incertezza si mettono alla finestra, anche perché probabilmente sperano che ci sia qualche intervento di agevolazione. Cioè dicono se vi saranno agevolazioni saranno nel futuro, quindi io aspetto a comprare l'auto. Già in primo siamo veramente in chiusura, in una battuta, secondo te pesa questo effetto di attesa per agevolazioni magari fiscali future? Pesa certamente, perché noi stiamo aspettando, qualcuno ha detto che c'è una valanga che incombe su di noi, noi speriamo che questa valanga trovi un argine, e l'argine in questo momento può essere solo lo Stato, quindi lo Stato deve provvedere a fermare la valanga e ridare fiducia alla gente. Va bene, con questo auspicio, tra l'altro il 5 dicembre si apre a Bologna il tradizionale appuntamento con il mondo delle due ruote e delle quattro ruote, il Motor Show. Con questo auspicio ringrazio da un lato il professor Giuseppe Volpato, che insegna economia industriale alla Ca' Foscari di Venezia, e dall'altro Gianprimo Quagliano, che è direttore del centro studi Promotor. Da Sebastiano Barisoni comunque, come ogni sera, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.